Allora, appunto, il tuo libro è uscito il 12 ottobre ed è una, come dire, ripercorre questi ultimi 10 anni di politica italiana con, come dire, non tanto le cronache della politica mainstream, ma da quello che succede sempre di più in realtà anche nelle piazze, e con fenomeni che, se non fossero inquietanti, sarebbero anche molto divertenti. Io comincerei da una definizione, no? Tu parli di gentismo, si parla tanto di populismo o si parla anche di qualunquismo. Quali sono le differenze? Cos'è il gentismo? Allora, il gentismo non c'è una vera e propria definizione che sia esaustiva, e questo è uno dei, ad esempio, tratti in comune con il populismo, no? Come diceva Diamanti, ad esempio, è una definizione indefinita per eccesso di definizioni. Però ci sono degli elementi, dei tratti che sono, diciamo, che concorrono a definire il fenomeno, e che io riprendo da vari studiosi, comunque politologi, anche enciclopedie che hanno iniziato a ragionare sul tema. Ad esempio, la prima definizione, quella più semplice, enciclopedica, che viene data da Treccani, è che il gentismo è un atteggiamento politico di calcolata condiscendenza verso le richieste, i desideri, le istanze presuntivamente espresse dalla gente, che è visto come un insieme vasto e indistinto. E questa è quella più semplice, diciamo. Poi ce ne sono molte altre. Una, ad esempio, l'ha fornita Nadia Orbinati, che è una politologa che insegna alla Columbia, e diciamo che il gentismo per lei sta a significare la reazione della gente comune contro gli adepti della politica, o comunque contro chiunque svolga una funzione di direzione politica. E poi c'è l'ultima, che è quella, diciamo, che è un po' più comune, se vogliamo, che riguarda un certo modo di stare su internet, no, contrassegnato da meme artigianali, immagini sfocate, scadenti, commenti sgrammaticati e un sacco di punti esclamativi. E io nel libro cerco di tenere insieme tutte queste varie dimensioni per dare un riquadro quanto più chiaro possibile di un fenomeno che comunque è molto complicato e molto specifico dell'Italia. E per finire, la differenza col populismo è che, se il populismo prevede nelle sue caratteristiche fondanti la presenza di un leader a capo di un partito politico che, tramite l'appello al popolo, costruisce consenso e addirittura a volte costruisce anche il suo popolo, il gentismo è una forma di populismo più orizzontale, che viene dal basso e che rifiuta alla radice qualsiasi tipo di mediazione politica classica e di rappresentanza. Ecco, tu cominci, diciamo, la tua analisi, fissi il punto di partenza nel 2007 con l'uscita del libro La Casta, giusto? Sì. Ecco, è quello l'inizio di tutto? Diciamo che io nell'introduzione parto da più lontano, cioè dal 92, parto proprio da uno spettacolo di Beppe Grillo e da un'intervista che Beppe Grillo aveva dato il 18 febbraio, fatalmente, cioè quando avevano arrestato Mario Chiesa, quindi era partito Mani Pulite. E Grillo già all'epoca parlava di questa gentocrazia, cioè lui diceva che la gente adesso non ha più paura di dire quello che pensa e si fa avanti. E quindi diciamo che il fenomeno risale, è stato teorizzato per la prima volta in quegli anni, cioè il primo grande scossone politico istituzionale che ha dato il là a un nuovo tipo di politica in Italia, quindi alla Seconda Repubblica. Io ho fissato, diciamo, il Big Bang del gentismo contemporaneo nel 2007, l'uscita della Casta, perché lì, con l'uscita del libro e soprattutto con il discorso che si è fatto intorno al libro e intorno al concetto di casta, si è appunto entrati in un'altra fase politica e si è creato la grande polarizzazione che intercorre in tutta la società italiana, cioè quella tra un noi puro e incorrotto, un noi che io definisco la gente con la G maiuscola, è un loro rapace predatorio che vuole sempre fregarci, e questo loro è la casta, la cosiddetta casta. Quindi questo è il momento cruciale in cui si è ridefinito il paradigma politico in italiano, in una divisione manichea tra un noi e un loro, divisione manichea e però allo stesso tempo estremamente flessibile, perché è una retorica molto deresponsabilizzante e allo stesso tempo accattivante, che permette di una grande fluidità, insomma, nell'individuazione del nemico e del noi. Certo, ecco, nel libro tu ricostruisci veramente tantissimi episodi anche, o tantissimi fenomeni, alcuni sono proprio sporadici, altri hanno una gestazione un po' più lunga, che vanno dal movimento dei forconi al movimento 9 dicembre fino alle sentinelle in piedi, anche questioni più recenti contro l'immigrazione, la questione della legittima difesa con il benzinaio che aveva sparato, insomma tanti episodi che appunto costruiscono questa narrazione, anche in un certo senso. Questo è frutto un po' anche del lavoro che fai a Vice, giusto? Sì, assolutamente, è una sistematizzazione di un lavoro che porto avanti da diversi anni ormai, sia in qualità di news editor di Vice Italia che in qualità di collaboratore per siti come Internazionale, Valigia Blu e altri. E, come avevi detto tu all'inizio, introducendomi, effettivamente io non ho mai trattato la politica di palazzo, quella che tra virgolette chiamata politica di palazzo, o comunque l'attualità politica stretta, perché l'ho trovata sempre profondamente noiosa e molto troppo autoriferita. E quindi ho sempre prediletto uno sguardo, diciamo così, obliquo sulla realtà, andando a individuare tutte quelle manifestazioni, quegli scoppi estemporanei che per qualche giorno si impongono nel mainstream e poi sembra che scompaiono così come improvvisamente erano apparsi. In realtà, secondo me, è proprio guardando a queste esternazioni, a questi eventi che sembrano improbabili, che si colgono al meglio le pulsioni profonde, e le ambiguità e le contraddizioni della società italiana. Quindi ho sempre prediletto questo tipo di sguardo, e il libro è appunto il risultato di un lavoro che va avanti da anni e che a un certo punto ho ritenuto fosse necessario sistematizzare e appunto rendere in forma libro, ecco. Ecco, l'impressione che si può avere leggendo le cronache è che la gente appunto sia incazzata e non si sa bene perché. E ci sono sicuramente, come dire, una parte di persone che partecipano ad esempio a iniziative di questo tipo, che riversano anche in queste forme di protesta una sorta di speranza, no? Del trovare sfogo al proprio risentimento. E in alcune parti del libro spieghi anche come in realtà alcuni di queste manifestazioni, di questi episodi, in realtà siano un po' diretti anche da personaggi di estrema destra. Quanto c'è dello spontaneo e quanto c'è, come dire, del guidato? Ma guarda, rispondere a questa domanda è molto più complicato di quello che sembra, perché è sia spontaneo che guidato, nel senso. Prendiamo un esempio che tratto nel libro, il caso di Goino, no? Perché c'è stato l'anno scorso, il 24 ottobre 2016, è quel paesino nel Ferrarese, che poi in realtà è a 70 km a Ferrara, quindi è veramente lontano, che aveva fatto delle barricate per impedire l'ingresso in paese, quindi nel bar ostello del paese, a 12 donne richiedenti asilo. In quel caso la protesta era stata spontanea, cioè nel senso la prima organizzazione della protesta era stata fatta dalla comunità locale, specialmente dalle cooperative di pescatori, che sono il cuore pulsante di quella comunità. Però all'interno di queste cooperative di pescatori ci sono personaggi che sono dei politici, o comunque che hanno avuto esperienza in politica, in partiti di centrodestra, e quindi già qui possiamo capire che comunque un minimo di direzione politica organizzativa c'era già. e su questa poi si è innestata la totale strumentalizzazione della protesta ad opera di quello che all'epoca era il responsabile immigrazione e sicurezza della Lega Nord di Ferrara, cioè Nicola Lodi, detto Naomo, che adesso ha fatto carriera ed è segretario provinciale della Lega Nord di Ferrara. Quindi, cioè, nel senso, partono certe cose, partono anche come spontanee, ma poi vengono fatte fatalmente confluire in certi ambiti politici, viene impressa una certa direzione. Tant'è che qualche giorno fa, ricorrendo il primo anniversario, chiamiamolo così, sulla stampa è apparso un articolo in cui un giornalista è andato a Godino un anno dopo e, parlando con gli abitanti del paese, in molti si sono, ormai dopo un anno, si sono dissociati da quello che è successo, dicendo in una narrazione comunque autoassolutoria che sono stati fregati da politici in cerca di voti che hanno fatto una guerra sulle loro teste, e però si sono anche lasciati strumentalizzare. Quindi il rapporto è molto complicato e secondo me va scomposto con estremo rigore, cioè caso per caso. Certo, c'è un caso ad esempio che è quello che descrivi della rivolta delle periferie romane, in cui ad esempio magari istanze anche legittime di assenza di servizi eccetera vengono riversate in temi che magari non c'entrano nulla, come il tema dell'accoglienza dei richiedenti asilo, quindi insomma diventano un canale di sfogo. E questo mi dà là per farti una domanda: quanto nella manifestazione di questi fenomeni c'entra ad esempio la crisi dei partiti, dei corpi intermedi, cioè la crisi della rappresentanza che viviamo negli ultimi anni? C'entra moltissimo, e anzi è la causa primaria, è assolutamente la causa primaria, specialmente la crisi dei partiti di sinistra, con quei partiti che hanno lasciato un grande vuoto, non solo a livello politico ma proprio concreto, fisico direi, sui territori. C'è poi l'assenza di strutture che una volta c'erano, adesso non ci sono più, per insomma, motivi che non stiamo qua a sondare, altrimenti finiamo da tre giorni. Comunque anche qui ci sono molti casi. Tu hai citato appunto il capitolo sulla rivolta delle periferie romane del 2014, in cui cause di assenza proprio strutturale direi della politica, pensiamo a quartieri come Tor Sapienza o altri di nuova costruzione come Nuova Ponte di Nona e altri, quindi le nuove, veramente parliamo delle nuove periferie romane, non sono più quelle di una volta. E lì c'è un'assenza totale delle istituzioni, è innegabile. E quindi comunque la necessità di auto-organizzazione della cittadinanza. Purtroppo negli ultimi anni si sono innestate con successo, direi, le strumentalizzazioni dei partiti di destra, o comunque se non di estrema destra. E lo vediamo in moltissimi casi. Adesso ad esempio abbiamo un caso che è potenzialmente eclatante: proprio in questi giorni si andrà a votare ad Ostia, dove appunto il crollo totale del PD che governava quel quartiere, il crollo che ha portato al commissariamento, ha lasciato aperto una prateria, tant'è che adesso Casa Pound è stimata intorno al 10% nei sondaggi, che è tantissimo per un partito di quel tipo. E questo è un caso, poi ci sono molti, molti altri casi, però in quel vuoto lì, ricalcando poi strategie di partiti di estrema destra esteri, io nel libro cito esplicitamente il caso di Alba Dorata, quindi no, con la strategia di mascherarsi dietro sedicenti cittadini indignati o dietro certi comitati di quartiere, purtroppo è una strategia che ha attecchito e che funziona a livello politico, nel senso che si creano modelli e precedenti, e che però, e questa è una cosa che va detta, non risolvono nulla, perché a Tor Sapienza i migranti, il centro d'accoglienza è stato svuotato, ma i problemi del quartiere sono rimasti, sono problemi strutturali, sono problemi sociali, politici, che di certo non si risolvono con un assalto a un centro d'accoglienza. Lo stesso potremmo parlare del Tiburtino Terzo, ad esempio, per fare anche esempi più recenti. Certo, ecco, però tu hai citato la Grecia, Alba Dorata, Ed è interessante questo anche per capire forse se c'è una chiave di un tipo di lavoro che si può fare nel prevenire questi fenomeni, perché Alba Dorata ha avuto una grande crescita, ma anche Siriza in realtà, non solo per la questione appunto del braccio di ferro con l'Europa, facendo un lavoro di tipo sociale, portando medicine a chi non le aveva, cibo a chi non l'aveva. È questa la direzione in cui ci si dovrebbe muovere per prevenire questi fenomeni? Sicuramente una direzione in cui ci si deve muovere per arginare anzitutto questi fenomeni, quindi togliere quel terreno su cui possono attecchire. Poi naturalmente bisogna vedere se, e il caso di Siriza è abbastanza emblematico, se una volta arrivati al potere, comunque arrivati alla stanza dei bottoni, si riescono a portare avanti ancora questo tipo, parliamo di modelli di auto-organizzazione dal basso, tutte queste cose qua. Bisogna capire poi se sono compatibili o conciliabili con un'azione di governo. Poi il caso della Grecia è proprio estremo, sì, lo sappiamo, insomma, quindi è molto, molto più difficile da gestire il tutto. Però sicuramente il primo argine è quello, assolutamente, quindi è una direzione assolutamente da prendere con convinzione e al più presto anche. Questo ovviamente non sto dicendo che non viene fatto, anzi, però in certi casi, in generale, non sto dicendo che in generale non venga fatto, però in alcuni casi c'è un vuoto inevitabilmente c'è un vuoto su cui si vanno ad infilare certe istanze, certi discorsi e purtroppo certe pratiche. Certo, però insomma tu sempre nel libro descrivi invece una situazione in cui la politica ha fatto una cosa diversa, cioè fa una comunicazione gentista. Il caso del referendum, insomma, del 4 dicembre, la comunicazione del Partito Democratico a un certo punto è cambiata, magari strizzando l'occhio a quel fenomeno. Sì, no, ma tu hai usato un eufemismo, strizza un occhio, l'ha proprio ricreata e cavalcata alla grande. E per chi non sapesse, non si ricordasse, durante la campagna per il referendum costituzionale sono spuntate fuori strane pagine e certe pagine preesistenti hanno iniziato a fare una stranissima campagna di propaganda per il sì. Quando parlo di certe pagine, intendiamoci, sono nomi come 800.000 iscritti per Homer Simpson, Presidente del Consiglio, Voglio solo amore, Cuore piccole dolcezze, insomma non è che sono delle pagine di scienza politica, ecco. Però queste pagine a un certo punto hanno cominciato a fare meme, immagini di propagandiste, di propaganda serrata per il sì, con argomenti super plunquisti, super gentisti, e perché facevano parte appunto, facevano queste pagine, questi meme, facevano parte di una campagna di marketing più o meno occulto che diciamo spingevano messaggi governativi. E ovviamente l'esperimento è andato finito male, perché lo sappiamo, Renzi non ha, insomma, il risultato ha parlato chiaro, quindi quella strategia di rincorrere il gentismo sul proprio terreno, cercandone di ribaltarne il segno per far passare messaggi governativi, è una strategia ovviamente destinata al fallimento, perché si capisce subito che sono cose artefatte, che ovviamente la potenza comunicativa, il carattere principale della comunicazione gentista è la sua spontaneità, la sua genuinità, che da un lato porta ovviamente a imperfezioni, però dall'altro è percepito come autentico, e sta quella che è successo. Ovviamente ricrearlo in laboratorio e spingerlo sui social media abbiamo visto che non funziona, però nonostante la batosta del 4 dicembre 2016, il PD ha continuato a farlo e anzi ha pure incrementato la produzione. Qua solo per citare un caso, un esempio abbastanza eclatante, quando la pagina Matteo Renzi News qualche mese fa aveva pubblicato quel post, quel fotomontaggio con Matteo Renzi e Francesco Totti, insomma, diciamo due grandi capitani, insomma era una cosa assolutamente ridicola, si sono presi, insomma, le botte da tutti, E poi si è venuto a sapere che la pagina che l'aveva spinto, Matteo Renzi News, era gestita da un membro dello staff, un membro apicale dello staff di comunicazione di Renzi. Ovviamente però è una strategia che non funziona, anche però va bene, secondo me, infatti non a caso il libro finisce su questo caso, su questi casi, su questa campagna guerriglia agentista del PD, però dà molto la cifra dei tempi, restituisce alla perfezione lo Zeitgeist in cui certe pratiche e più in generale una certa comunicazione agentista, se no il agentismo stesso partito dai margini proprio più oscuri e improbabili della politica italiana sta sempre andando più al centro. Beh, e questo comunque è un fenomeno più globale che non riguarda solo l'Italia, cioè quella dei margini che sta andando sempre più al centro. Sì, siamo veramente agli sgoccioli, quindi ti faccio un'ultima domanda. Tra l'altro, appunto, consiglio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di leggersi il tuo libro, perché è piena veramente di episodi che magari abbiamo intravisto qualche tempo fa e non ce li ricordavamo, e tu li svisceri, li analizzi, e quindi insomma è molto utile anche per ricostruire un po' quello che è stato. E tu parli molto, ad esempio, nel libro di citazioni farlocche come quella di Pertini, che bisogna cacciare coi bastoni, appunto, eccetera eccetera. È un popolo che si nutre anche di fake news, questo diciamolo. E come dire, a proposito di condizionamento della politica, possiamo ricondurre a questo fenomeno anche quanto è accaduto quest'estate col tema delle ONG? Sì, però sul tema delle ONG è difficile parlare di notizie false. Ed è questo proprio il problema, perché questa è una campagna di propaganda politica, mediatica, che non rientra nel concetto di notizie false, o comunque in quel concetto di notizie false di cui si parla negli ultimi mesi, cioè nell'ultimo anno, quel dibattito enorme che è partito dall'America dopo la vittoria di Trump. È qualcosa di... Il punto è che io proprio ho difficoltà a stare dietro a questo dibattito, cioè non mi piace, perché le notizie false in tutto sono sempre esistite naturalmente, e la cosa che purtroppo questo dibattito cercava di stillare è che il web, no? Che le notizie false siano solo sul web e che rimangano lì, che sia una cosa quasi da analfabeti funzionali, e invece non è così, perché le più grosse notizie false vengono dall'alto, vengono dai media, vengono dalla politica. E il caso delle ONG è un caso di manuale, è veramente un tema vecchio come quello della propaganda politica, però riaggiornato ai tempi moderni. Infatti nel corso della campagna di attacco alle ONG abbiamo visto una totale convergenza tra piccoli blog, no, di think tank olandesi, di Gefira, da cui è partito la campagna, e fino a un piccolo post, no? Dopo è uscito dicembre 2016, ingrossando sempre di più, quindi andando proprio a toccare tutti gli ambiti della vita pubblica e sociale, quindi partendo dal web, ingrossandosi sul web, finendo sui video virali, finendo sulle parole di Di Maio e non solo, e poi quella cosa lì è andata a influenzare, a determinare l'orientamento del governo italiano sulla materia, quindi ha portato ad effetti assolutamente concreti. Sarebbe facile dire vabbè, quella campagna era basata su notizie false. Il problema è che non era basata solo su notizie false, è una cosa molto più complicata e, come abbiamo visto, purtroppo è difficile da sconfiggere.